Amici Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. You wanna be Americano, Americano, Americano, but you were born in Italy. You try living alla moda, but when you drink whiskey soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll. Il passaggio sulla destra per Florenzi Totti. Francesco Totti, quando gioca contro il Real Madrid, riesce sempre a segnare un gol. 1-0. Il fischio di Fischer, tempo scaduto, la Roma batte Real Madrid 1-0 e lo fa con la firma del suo capitano Francesco Totti. Adesso partito per venire negli Stati Uniti, sono importante per poter venire con la gente degli Stati Uniti? Sì. È troppo veloce, vai. Ho risposto bene, sì. Grazie. L'ultimo rigore. Segna, vince lo United. Tocca Fletcher. Battuto Carrizo. Vince il Manchester United ai calci di rigore. Ma da parte nostra, molto bene. Noi rispetto al Manchester siamo più rimaneggiati perché noi abbiamo ancora tanti giocatori che devono tornare, loro erano quasi al completo. Una grandissima squadra che ha messo sotto tutte le altre, nelle altre partite, tutte e due le Galaxy e la Roma, e invece con noi è stata una partita equilibrata dove mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra, quindi molto bene tutto. Ciao a tutti, Franco Pietrini, autore di questo programma, Pietro Accorte in regia, Claudio Schettoni in redazione. Lampi d'estate, o meglio aurora boreale, visto che in Italia la notte, quando si è giocato Roma-Real Madrid 1-0, gol di Totti, che non sarà un fenomeno nel comprendere, come avete sentito, le domande in lingua straniera, nel caso in spagnolo. L'Inter invece perde, però segna con Real Madrid sempre, e la Roma vince. La Roma sta, insomma, è un po' l'estate della Roma, complici le vicende della Juventus. È la giornata mondiale dello stress, tra l'altro oggi poi ne parliamo, con Sabella che lascia l'Argentina dopo, con l'argento mondiale al collo. Arrigo Sacchi che questa mattina ha ufficializzato l'addio all'incarico di coordinatore delle nazionali giovanili. Quindi, per inciso, sistema nato con Prandelli, con Baggio, con Arrigo Sacchi, ha perso tutti i suoi pezzi e in questo momento il calcio azzurro è in un momento che più nero non si può. A proposito della Roma, insomma, nella terra di Pallotta, battuto Real Madrid, nel giorno dell'aumento di capitale 100 milioni, insomma, copione addirittura fin troppo perfetto, quasi troppo perfetto per essere vero. Pierluigi Pardo, ciao! Come va? Benissimo. Giornata mondiale dello stress che non ti riguarda, no? No, in vacanza, ma oggi sto facendo una cosetta, quindi anch'io diciamo che sono un po' meno rilassato di ieri. Sempre felice, no? Stress positivo, Non come Sacchi, insomma. Mi dispiace, comunque Sacchi è un maestro e ha fatto un grande lavoro, tra l'altro, ovviamente non sotto la luce dei riflettori, ma prima, certo, Piantanini mi parlava delle partite viste da Sacchi negli ultimi due anni, una roba tipo 500 partite viste in giro. Non sono 600, sono 700, 800, Arrigo, sì. Non so chi, un paio di giorni fa un ascoltatore diceva che uno come lui o come Vialli potrebbe essere un nome buono, no? Per eventuale ruolo. Senti, facciamo così, chiediamolo a Fabio Monti, che è nell'illustre del Corriere della Sera, che è collegato con noi. Ciao Fabio. Buongiorno a tutti. Stavamo valutando nomi di candidati alternativi, Sacchi, Vialli, eccetera, eccetera. Oggi ne scrivi ampiamente, insomma, della vicenda, della questione Tavecchio sul Corriere della Sera. Però io volevo chiederti anche questo: molti si domandano il motivo, l'ha sottolineato anche Olivieri questa mattina nella sua conferenza stampa, poi lo sentiamo. Ricevo molti messaggi tifosi dell'Inter che dicono: in questo silenzio mi viene voglia di cambiare squadra. Perché l'Inter sta zitta sul caso Tavecchio, Fabio? probabilmente perché sono tutti in America e probabilmente non sanno bene chi sia questo Tavecchio, insomma. D'altra parte l'Inter attenta a questioni non propriamente calcistiche non c'è più, è chiaro che il silenzio dell'Inter è grottesco, tenendo conto che di tutto quello che ha fatto Moratti per come dire smarcare la società anche dai temi esclusivamente pallonari, basta pensare alla creazione degli Intercampus e a tante altre iniziative che sono state fatte con Emergency, dico le prime due cose che mi vengono in mente, però gli Intercampus sono veramente una cosa importante. E probabilmente non c'è più quella sensibilità che c'era prima, insomma. Sì, strano, curioso per una società da sempre molto attenta, perché tre giorni fa ha fatto la foto davanti alla Casa Bianca con la scritta no al razzismo, Sì, appunto. No, poi i tifosi inglesi sono imbestialiti, a torto, a ragione, però ne abbiamo parlato molto per quel corretto contro Toira, hanno un presidente dell'altro mondo, eccetera. E poi insomma, l'immagine dell'Inter è sempre stata quella che tu hai descritto, quindi tutto questo suona abbastanza curioso, no Pierluigi? Sì, suona tutto abbastanza curioso, mi sembra che ci sia un eccesso di critica in questo momento, insomma, in generale, che deriva da una stagione molto complicata, sicuramente da un periodo non fortunato, non felice, forse anche da poca chiarezza, dalla presenza forse di tanti presidenti, qualche volta in opposizione l'uno con l'altro, insomma, quindi un discorso di responsabilità che deve essere evidentemente chiarito, però insomma, non mi sembra un progetto così drammatico, sinceramente, mi sembra che ci siano le possibilità invece di far bene. Beh, tempo, sì. Il 2010 è un'altra cosa, questo è evidente, insomma, però non la vedo così drammatica, ecco. No, calcisticamente no, mi sembra un inizio di stagione anche piuttosto tranquillo. Ma poi il riferimento, la domanda però era sul fatto specifico della federazione, non era sulle prospettive dell'Inter, No, certo, era su quello, Fabio, era su quello. Poi sulle prospettive dell'Inter c'è anche una frase di Toir, ne parliamo subito dopo il traffico, che è questa: molti giocatori ci hanno detto di no e se ne pentiranno, ha tuonato il presidente dell'Inter. Tutti convocati. Il problema qual è? Parlare così in un'assemblea, al di là dei contenuti che sono gravi, parlare così in un'assemblea, e allora parlare così in un'intervista Rai, che cosa dimostra questo? Inadeguatezza. Parla piano, è educato, non dice parolacce. Ha proposto di avere al suo fianco Tavecchio e Macalli in questo percorso. A me queste non sembrano colpe. Tavecchio, secondo noi, è inadeguato a ricoprire quel ruolo, anche perché ha un occhio solo e ha l'occhio imprenditoriale, basta. Albertini viene dal calcio giocato, ha due occhi. Ha giocato e ha fatto il dirigente federale. La lotta non si ferma però, nuove iniziative di disturbo sono continuamente allo studio. Queste le parole di Olivieri stamattina su Tavecchio, Albertini e candidature varie. Fabio Monti, cosa ti aspetti dall'incontro con Malagò? Cosa ti aspetti dal presidente del CONI? Il presidente del CONI non è che possa fare molto. Mi aspetto che spontaneamente Tavecchio faccia un passo indietro perché si renda conto di quello che ha detto Olivieri. Il problema non è la frase sul razzismo, che resta grave, l'abbiamo detto, ma ormai andiamo avanti. Il problema è la sua inadeguatezza. D'altra parte la forma in certi casi è anche sostanza, evidentemente se uno non sa salvaguardare la forma si vede che non può fare il presidente federale. Assolutamente. È quello il punto, lo ripetiamo da giorni, è quello il punto. Fatta salva la buona fede, si è scusato mille volte, qualcuno mi ha anche scritto ho fatto un passo indietro, no, non ho fatto un passo indietro rispetto al giudizio, rimane terribile sulla frase che ha pronunciato, ma insomma diciamo che quando una persona 20 volte dice che non è razzista, che assolutamente questa zavorra di tutto il mondo contro, perché abbiamo sentito Ma guarda Pierluigi, se tu vai ad aprire il sito della CNN c'è questa vicenda, viene raccontata sul sito della CNN questa vicenda, la richiesta della FIFA, cosa di oggi. Piuttosto, adesso io non mi aspetto nessun passo indietro da Tavecchio, continuo a pensare che l'11 di agosto avremo lui come presidente federale e non cambio idea su questo, non che sia d'accordo naturalmente, ma non cambio idea sulla mia previsione sul futuro. L'altro giorno abbiamo sentito Crosetti, ma vedrai, non può non fare un passo indietro. Fabio Monti ora ci dice: ci aspettiamo che faccia un passo indietro. Secondo me questo non avverrà, ma l'ha già detto lui. No, Fabio, piuttosto il futuro è una federazione vediamo domani. Dici, ma aspettiamo con fiducia. Il presidente del CONI qualcosa gli chiederà. Insomma. Sì, aspettiamo. Ma è comunque l'intera costruzione che era stata messa in piedi con l'avvento di Prandelli, con grande entusiasmo, il ritorno di Baggio che se n'è già andato da tempo. Oggi anche l'addio di Arrigo Sacchi è una Federcalcio che non esiste più in questo momento, in nessuna delle sue componenti. Ma la Federcalcio aveva un buon presidente che era Bete, hanno fatto di tutto per rovinargli la vita e per metterlo in difficoltà, hanno respinto qualsiasi idea sensata che aveva, gli hanno fatto la guerra dal primo all'ultimo giorno, forse perché aveva un'autorevolezza che disturbava qualcuno, e questi sono i risultati, insomma. Io credo che Abete, dopo il 2010, che non è stato esattamente un mondiale gloriosissimo, abbia fatto buone cose nel senso di ricostituire tutto il Club Italia, anche con la regia di Albertini, Sacchi. Sì. Baggio avrebbe potuto fare molto di più al settore tecnico, ma sappiamo poi anche perché non l'ha fatto. Ecco. E mi pare che Abete potesse essere veramente un ottimo presidente, lo è stato finché ha potuto, però non l'hanno mai messo nelle condizioni di lavorare. Da questo punto di vista il presidente federale ha poco margine. Certo, certo. Per operare, insomma, perché questo dice lo statuto. Certo. Portando invece il discorso sulla notte americana, Pierluigi, dicevo prima, copione meraviglioso per la Roma. Però meglio di così, aumento di capitale, 100 milioni, una terra di pallotta, batte il Real Madrid, gol di Totti, che vuoi di più della vita? Sì, ma sai, il calcio d'estate conta zero, quello che conta secondo me. Sono d'accordo. Poi capisco che batte il Real Madrid, faccia questa notizia, parlo con un gol di Totti, faccia anche ancora più notizia, e sia anche una cosa bella, una storia bella, in assoluto, in generale, stiamo a vedere questo campione che continua a sopravvivere a se stesso e agli anni in una maniera così brillante e così straordinaria. La buona notizia per la Roma è la vivacità sul mercato e il fatto che gli americani, contrariamente a quello che dicevano certi maligni a Roma, stanno facendo pienamente la loro parte, ci stanno mettendo l'atteggiamento giusto. Poi è una gestione tipo Manchester City o Chelsea degli anni d'oro, cioè non sono i ricchi scemi, no, non che lo fossero il sito del Chelsea, ma insomma non sono quelli che vanno e pagano 55 milioni per David Luiz, per il Paris Saint Germain, un po' perché non lo possono fare, sicuramente perché non lo possono fare, un po' perché non lo vogliono fare, e quindi però la gestione è una gestione seria, con le spalle larghe, di una società forte che sicuramente vuole fare lo stadio, ma vuole fare lo stadio perché lo stadio, lo sappiamo, la Juve lo dimostra, è un asset fondamentale per la crescita di una società. A me sembra, anche nella presa di posizione dura di Pallotta nei confronti di Tavecchio, mi sembra che questo tipo di mentalità internazionale ponga oggi la Roma all'avanguardia. Sì. Tra le società italiane che sono all'avanguardia dal punto di vista proprio culturale, dal punto di vista dell'idea che ha di società, di futuro, di sviluppo del mondo del calcio. Sì, sono d'accordo. Fabio, invece mi spieghi quella frase di cui sopra di Toir: molti giocatori mi hanno detto di no e se ne pentiranno. È l'orgoglio di un presidente che è convinto di avere un progetto alla lunga vincente. Lui ha fatto questa scommessa, vediamo se la storia gli darà ragione, vediamo se davvero lui riuscirà a chiudere i conti dell'Inter in pareggio, a riportarla in Champions League e magari ai massimi vertici nel giro di 3 anni. Io non ci credo, però probabilmente mi sono sbagliato tante volte e probabilmente mi sbaglio anche questa volta. Se qualcuno gli ha detto di no, è chiaro che lui si senta un po' toccato e che rilancia in qualche modo la sfida. Ma in questo momento la situazione societaria dell'Inter è del tutto chiara o c'è ancora qualche ombra secondo te? No, mi pare che non ci sia più nessuna ombra, ma le ombre hanno finito di esserci praticamente al 30 giugno, quando c'è stato l'ultimo ribaltone, ma la situazione è stata chiara fin dal 15 di novembre, insomma, quando un azionista acquista il 70% delle azioni, mi pare che diventa presidente a tutti gli effetti. Poi, siccome Moratti ha un nome, eccetera, è chiaro che la gente comunque l'abbia considerato ancora per mesi un punto di riferimento, sì, eccetera, però mi pare che poi Torino ha potuto fare e ha fatto tutto quello che ha voluto, insomma, ecco. Posso dire una cosa politicamente corretta, con un aspetto nello sforzo di Moratti che è totale, con credo la gratitudine di tutti all'Inter, che era eterna. Moratti è la storia dell'Inter, tra padre e figlio è sicuramente la rappresentazione dei momenti più alti di questa storia e potrà continuare ad avere un ruolo. Però io credo che, esattamente come è successo per motivi diversi con Mourinho, con il popolo nerazzurro che ha fatto tanta fatica, no, a elaborare il lutto della partenza di Mourinho, oggi insomma si debba voltare pagina, perché nella vita perché se no poi c'erano tutta quella serie di dichiarazioni, di frantendimenti, cioè ci potrà essere, ed è naturale ed è sano che in qualche questione Toir e Moratti possano avere idee diverse. Siccome oggi è cambiato il capitale della società, bisogna fidarsi, cioè, altrimenti si rischia di avere all'interno della società una figura così importante, così straordinaria, lo dico proprio senza mezzi termini, che però rischia in certi momenti, in maniera assolutamente involontaria, perché è il primo tifoso dell'Inter, di creare dubbi e un eccesso di dialettica. Questo è quello che penso io. Esattamente come per Mourinho, no? C'era sempre quest'ombra di un allenatore, cioè Benitez quando è arrivato all'Inter è stato trattato, diciamocelo apertamente, come uno. Ma Benitez non è mai stato voluto da nessuno, Pier, lo sai benissimo, ma non è stato voluto per primo da Moratti, così come Gasperini, quindi questa è stata la storia che... Perché c'era l'amore per Mourinho che ha toccato dei belli... Ma è chiaro, ma è chiaro, cioè venire dopo di lui sarebbe stato comunque difficile per qualunque allenatore del mondo, figurati per uno che insomma che era mal sopportato dalla proprietà. Ci rischia una cosa simile e diversa con Moratti, secondo me, che ha vissuto delle stagioni gloriose, ha fatto il bene di questa squadra, deve essere ricordato, sarà sempre ricordato con statue equestri, veramente le merita per quello che ha fatto, che è incredibile. E paradossalmente mi metto nella testa del tifoso ancora di più, perché c'è stata una fase nella quale i soldi lui ce li ha rimessi, quindi cioè lui ha attraversato proprio tutte le fasi della storia nell'azzurra, la sofferenza e poi la vittoria, quindi da questo punto di vista figura straordinaria, leggendaria. Però oggi il rischio è che in qualche circostanza ci possa essere quel tipo di situazione che qualche volta ho visto l'anno scorso, no? Sì, ma certo, però tieni conto anche che insomma i tifosi dell'Inter erano preoccupati anche perché la situazione dell'acquisizione della società e la politica di Toir non erano del tutto chiare. Come ha ricordato Fabio Monti, la situazione si è chiarita definitivamente il 30 di giugno, adesso è tutto lì. E poi è chiaro che mi pare che più defilato di così Moratti non possa essere. Dal 15 novembre ha detto soltanto una cosa, quando continuavano a ripetere che la società era da risanare, che era un disastro eccetera, ha detto forse non è tanto da risanare, ecco, forse i conti non gli davano torto, sì, ecco. Mi pare che l'unica cosa che ha detto l'ha detto a fine di maggio, insomma, per uno che ha ancora il 30%, che poi adesso piano piano si sfiderà, mi pare che sia più felice, i quattro argentini sono stati mandati via, quindi mi pare che adesso anche Mazzarri è libero di fare tutto e adesso niente, si aspettano sfidetti. Questo sta ad intendere che prima no, invece. No, evidentemente no, perché c'è stato fatto questo tipo di scelta. Che è corretta, Fabio, secondo me. No, ma è correttissima, ci mancherebbe altro. Ma questo vale per tutte le società, cioè gli ostacoli del cuore, i sentimenti, la gratitudine, il legame sentimentale, che all'inizio un po' la conosco, vale all'ennesima potenza, perché è una società... Sì, ma non è però solo quello, il problema è anche che devi pensare a trovare i giocatori di quel valore lì. Ah, certo, chiaro. Non è soltanto perché Zanetti uno dispiace che smetta di giocare, perché è un esempio, è stato anche un grandissimo giocatore, no? Come Samuel Vinito e Cambiasso, e quindi non è facile rimpiazzare gente come loro, non è soltanto la questione delle fasce rosse alla Miss, ricchi premi e Cotillon. È chiaro. Fabio, ti ringrazio. Grazie a voi. Un abbraccio, ciao. Grazie a Fabio Monti. Prima... chi era? Eccoci. Ah no, tu ci sei. Anche se c'è un ascoltatore che mi manda una mail che dice questo: dite a Pardo di non usare un imbuto davanti al telefono. Stai usando un imbuto? Ma che imbuto? facendo una cosa che tra poco ne parleremo. Si chiama Andrea Luisetti, giuro, questa mail è arrivata adesso. Bello, fra poco ne parliamo, dai. Paolo, missione per conto di Dio. No, no. Prima di salutarti, prima di salutarti, parliamo con Paolo da Milano, dai. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, visto che cerchiamo di fare informazione oltre che opinione, se non sbaglio, poco fa avete parlato con un certo giornalista, Fabio Monti, Corriere della Sera, se non sbaglio, che se purtroppo appena disconnesso. Avete chiesto per quale motivo un tifoso dell'Inter era un po' perplesso per quale motivo l'Inter non prende una posizione su questo Tavecchio. La risposta che è stata data è che forse l'Inter non conosce Tavecchio. Mi sbaglio? No. Si sbaglia, perché mi sembra un po' semplicistico. Semplicemente Fabio Monti ha detto che, ma non sta a noi fare gli avvocati difensori di nessuno. Fabio Monti ha detto l'Inter è all'estero, non ha ancora preso posizione. Suona strano, però, che non ci sia in questo momento una figura all'Inter deputata a commentare e a prendere posizione e ad esprimere la posizione della società su questo genere di cose. Questo certamente suona strano, vista qual è la storia, anche da questo punto di vista, dal punto di vista della comunicazione dell'Inter. Ho detto bene, Pierluigi? Sì, no, dal punto di vista l'hai raccontato in maniera perfetta, poi può rimanere il dubbio di fondo. È una società questa di comunicazione virtuale da un lato all'altro del mondo in tempo reale, per cui le parole di Tavecchio sono arrivate in capo a qualsiasi parte del mondo. Ma tu sei sorpreso del silenzio dell'Inter? Io penso che quando c'è stata la discussione in Lega l'altro giorno, era già di fatto il presidente al 100%, perché non, anche se tutta la Serie A avesse deciso di votare per Albertini, comunque i numeri sono completamente dalla parte di Tavecchio, come diceva ieri a Modi, e questo è un elemento interessante. Per la prima volta, se verrà eletto Tavecchio, ci sarà un legame assoluto di tutte le leghe d'accordo, quindi c'è un'unanimità di consenso su di lui, fino all'altro giorno era praticamente certa. E secondo me, da parte di qualcuno, quindi, c'è stata la voglia di non so se è il caso dell'Inter, di non indicarsi un presidente che di fatto è stato. Perché qua alla fine non so se tu gli puoi fare un'opposizione vera e reale, ma se tu sei comunque minoranza e tanto quello sai che dice, qualcuno secondo me avrà pensato che tatticamente era meglio non farselo nemico. Da questo punto di vista Roma e Juve hanno preso atteggiamento diverso, poi c'è stata quella gara lì che ha aperto il fronte, e adesso hai visto che prima la Fiorentina, poi la Samp, adesso anche il Sassuolo, poi sono arrivate le reazioni, quindi è cambiato un po' tutto, ma senza quella gara sì, ma ci, insomma, se non è questa sarà un'altra, se non è questa sarà un'altra. Abbiamo fatto sentire quella ripescata in archivio, oggi ripresa tutti i giornali, relativa al calcio femminile. Insomma, io posso immaginare che i ragazzi dell'ufficio stampa a Federcalcio in questo momento siano vagamente preoccupati. Facciamo così. Ciao Pierluigi, sentiamo domani. Sì, sentiamo domani. Ma l'emissione, la comunicazione è una cosa importante, non deve essere vista per forza come qualcuno che ti sta fregando, cioè la capacità di comunicare è una qualità, è uno skill. Ma per certi ruoli istituzionali è determinante. Assolutamente, quindi non è che bisogna guardare con sospetto a uno che sta a comunicare, è effettivamente un problema quando hai una persona che ti deve rappresentare che fa questo tutto qui, insomma. Poi, ripeto, io l'ho sentito. Alla fine bisogna credere che non sia una schifa. Io penso, ma non credo. L'ho già detto molte volte, non credo che sia razzista. Credo semplicemente che in questo momento sia un po' difficile immaginare in questo mondo un presidente, uno che riveste una carica così importante, che è sempre a rischio di curva pericolosa. Ciao Pier. Ciao. Baci. Convocati. Yeah. spero di non continuare perché faccio fatiche. Purtroppo in questi 4 anni che sono stato e sono il responsabile del nazionale giovanili, mi sono cuccato qualche cosa come 500 partite internazionali, perché ne facciamo da 100-120 tutti gli anni. Messi está haciendo un gran mundial, que es lo que todos esperábamos, que es lo que esperaba él, que es lo que esperaban sus compañeros, que es lo que esperaba todo el público de Argentina. Así que estoy muy contento por el equipo en general y por él. Obviamente que es un jugador determinante para nosotros. Maradona era un jugador determinante y Messi lo es. Ma che sono? Io sono. Ehi. Piano. Mi che sono arrivato a velocità, capi? Non so. Però calma. Non so. Siediti. Ai. Stanco. No, oggi no. Sì, ragazzi, giornata mondiale dello stress, l'ho detto in apertura. Quello che le parole di Arrigo Sacchi che avete sentito prima di quelle di Sabeia erano di un intervento dello stesso Sacchi a questi microfoni il 20 febbraio, quindi non è una decisione maturata oggi o ieri o l'altro ieri o sulla scorta di quanto è successo dopo il mondiale. Le parole di oggi invece di Sacchi sono state: con dispiacere lascio un incarico cui tengo molto, però ho un avversario terribile che sono riuscito a governare per 22-23 anni e che alla fine però sta vincendo, ed è lo stress. Queste le parole di Sacchi, quelle di Sabeia sono di repertorio dopo il mondiale. Anche lui ha lasciato l'incarico alla federazione, ha rimesso l'incarico alla federazione argentina. E attenzione, perché ce n'è un altro, non tanto per stress ma per dissidi con i suoi datori di lavoro, che non sono gente facile, cioè i russi. Capello, che ha detto: se non hanno più fiducia in me, pronto a dare le dimissioni. L'altro ieri ha raccontato Capello in una conferenza stampa: ho partecipato alla commissione tecnica della federazione, ho letto di mie presunte frasi contro i giocatori, ma mai nella mia vita e nella mia carriera ho parlato male dei calciatori. Sarei un imbecille se l'avessi fatto, nei confronti ad esempio di un portiere come Akin Fiev, che è un grande con il quale continuerò a lavorare. L'obiettivo principale è il mondiale di Russia, allo stesso tempo dobbiamo andare agli europei di Francia, sono due progetti separati, lavoriamo in questo senso per ottenere buoni risultati, però Capello ha anche aggiunto che se non c'è più fiducia parliamone, discutiamone. I soldi in ballo sono moltissimi, questo lo sappiamo tutti. Stipendio di Capello è da record mondiale totale universale per quanto riguarda un incarico di commissario tecnico, si viaggia sui 9 milioni l'anno, il che rende il discorso abbastanza complicato e interessante. Giorgio da Prato, buongiorno. Ciao Carlo, grazie della convocazione, buongiorno a te. A parte il fatto che secondo me per rivestire un ruolo come quello di presidente federale occorre anche un physique di un ruolo adeguato. Tavecchio, non so se tu ricordi negli anni 70 la pubblicità dell'omino del pennello cinghiale. Quello col pennellone sulla bicicletta? Bravo, tanto fisicamente che come lessico, come proprietà lessicali, sì. Tavecchio mi ricorda molto l'omino della proprietà del cinghiale. Però, a parte questo, io, meno male che, se ho ben capito, si sta muovendo il CONI, perché io ritenevo finora la vera lacuna di tutta la questione era l'assenza del CONI, perché secondo me due parole di Malagò, che non possono essere che parole di delegittimazione, saranno indispensabili per far crollare anche quei presidenti che per loro motivi di bottega ovviamente continuano a sostenere Tavecchio. Secondo me due parole di Malagò, anche Lotito dirà che non ha mai sostenuto Tavecchio. Sì, questo la vedo dura. No, ma allora il discorso è semplice, parole di Malagò, in questo momento anche Renzi era detto: la mia voce e il mio pensiero sono quelli del presidente del CONI. Presidente del CONI, che è un uomo di cui c'è da fidarsi, che incontrerà domani i candidati, e non è detto che queste parole debbano essere pubbliche. Vediamo che cosa succede dopo questo incontro, perché poi alla fine conteranno i fatti, no? Io credo che in questo momento l'unico in grado di mettere fine alla vicenda sia lo stesso Tavecchio, ritirando la propria candidatura, altrimenti verrà serenamente eletto alla presidenza della Federcalcio con buona pace di tutti noi. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande e ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Cinghiale, la grande marca. Era questa, no? Era questo lo spot cui faceva riferimento il nostro ascoltatore da Prato. Emilio, provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno. Senti, volevo dirti, ma speriamo che non si avverano le due previsioni dell'11 agosto, che quando riguarda Tavecchio, io non so niente contro Tavecchio, ma era in presenza, non è, diciamo... Per me non né lui e né Magalli, bisogna azzerare, se diciamo azzerare per rifondare il calcio, perché io sono uno sportivo e a me mi piace il calcio dai dilettanti alla Serie A, lo seguo tutto, però bisogna fare le cose per bene, non fare le figuracce che abbiamo fatto, come Magalli ha fatto l'interregionale con i tre gironi, se pensiamo in Lombardia ci sono 11 squadre, è una cosa che... Bisogna rifondare sia la Serie B, la Serie A, la Serie la Lega Pro, sì. La Lega Nazionale Dilettanti, che sono senza retrocessione, senza solo con le, diciamo, fai i playoff senza promozioni, solo con la disgrazia, sì, se capita qualcosa. Ma poi insomma è un mondo, è un far west abbastanza deregolamentato quello che c'è in quelle categorie, sono d'accordo. Non si sa da che parte cominciare nel tentare di riformare l'intero sistema. Io comincerei da una presidenza federale robusta, perché questo è il fondamento di una casa che è tutta da costruire. Insomma, stiamo parlando l'organizzazione che c'era, che è stata messa in piedi con l'arrivo di Prandelli, oggi è completamente smantellata, non c'è più nulla da dove partire, non si può partire dalla riorganizzazione dei campionati così, bisogna partire da una dal fondamento, cioè dall'elezione di un presidente federale credibile. Rocco, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Grazie per avermi chiamato. Ascolti, dica. Io chiamo da Erba, nel circondario oltre a vecchio conosciuto. Sì, da quelle parti. Sì, esatto, è proprio di Pontelambro lui. Sì. Ascolti, che non lo fate perché a me il calcio non piace, ascolto la radio perché mi piace la radio Monte, sì. 24. Sì. Ma state impallinando un uomo senza conoscere il suo vissuto, il suo quello che verrà, perché lui sta vecchio, guardi che per il sociale ha speso, ne spende, è tacciato di razzismo. Infatti, veramente brutto, sa, per una Rocco, persona come lui. Rocco, è ma per io... quello che lui non farà mai una marcia indietro, perché lui non è razzista. No, Erba, ma non allora, no, ascolti, le dico l'ultima roba. Dica. All'ospedale di Erba c'è un dottore, non un infermiere, un dottore del Togo. Provate a rintracciare lui e chiedergli informazioni sul signor Tavecchio razzista. Vedete cosa vi risponde. No, ma Rocco, se non diventa presidente, ma io continuo a ripeterlo, io sono profondamente convinto del fatto che non sia razzista, cioè che sia stato una pessima uscita, una battutaccia. Il problema è non... Questo, guardi, è quasi pretestuoso, no? Cioè, è quasi il pretesto, è quasi la scintilla che porta a discutere di tutto questo, ma non, io sono convinto che non sia razzista, non ho bisogno di vedere le fotografie dei campi che ha fatto in Africa, che poi ha mostrato pubblicamente. La mia domanda è adeguato Carlo Tavecchio a dirigere e a rappresentare il calcio italiano nel mondo in un momento così complicato in cui siamo a zero? È questa la mia domanda. Poi per il resto sono profondamente convinto che non lo sia, che non sia razzista. Tutti convocati. Claudia Schiffer, Mascherano, era una buona proposta. E Kim Basinger mi piace lo stesso. Eh beh sì, gli piace Mascherano, ma gli piace anche Kim Basinger. Non può avere l'uno e non penso che Benitez non riuscirà ad avere neanche l'altra. Continuo a pensare invece che, nonostante quanto detto da Allegri, che Vidal sia in partenza dalla Juventus. Allegri. Vidal è un giocatore fondamentale, credo che è un giocatore che in questi tre anni alla Juventus abbia fatto grandissime cose, oltre che a livello tattico, a livello di centrocampista, è un giocatore che in fase realizzativa è un giocatore molto importante per la squadra. Ho parlato con Vidal ieri innanzitutto per accertarmi le sue condizioni fisiche, visto che ha giocato un mondiale, visto che aveva subito un'operazione dopo 32 giorni, aveva giocato delle partite del mondiale. Però il ragazzo è motivato, la società e l'allenatore sono felicissimi che lui rimanga qui alla Juventus, e quindi ora ha bisogno solamente di un pochino di giorni di tempo per mettersi in una condizione buona. Questo Allegri, ma intanto il Milan in America sta prendendo i soldi, ma sta perdendo la faccia, perché di sì, 1-8 nelle prime due uscite, una squadra che sembra molto lontana dall'essere accettabile. Galliani chiede un atto di fede, intanto l'operazione simpatia, indovinate chi è affidata su Instagram, Mario Balotelli e il Sharawi, questi qui? Il Sharawi saluta i tuoi fans, saluta i fans. Senza il gel non li vedo benissimo, non li vedo benissimo i rossoneri in questa stagione. Buongiorno Luca Chiabotti. Buongiorno. Gazzetta dello Sport, come sapete Hackett ha torto al 100%, ma l'attacco degli azzurri non ci sta, è il tuo corsivo, la tua opinione a pagina 19 del giornale rosa di oggi. Condivido, vorrei spiegare, vorrei che tu spiegassi invece quanto hai scritto. Ma semplicemente che a fronte di un comportamento di Hackett che ha lasciato la nazionale e soprattutto poi ha commentato questo suo addio, diciamo questa sua uscita dal raduno in modo non urbano, diciamo verso tutti, verso la nazionale, i compagni, i medici e chi, i giornalisti, perché se ne è presa anche quei giornalisti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi torto su tutto, perché doveva gestire meglio dall'inizio questo suo problema con la maglia azzurra, ma poi quando mi sono rimasto un po' così stupito, perché in tanti anni non era mai successo che a fronte di un giocatore che comunque è stato punito pesantemente per il suo gesto, perché sei mesi di squalifica sul campionato, e anche questo secondo me bisognerebbe discuterne se si può fare o no. Comunque, sei mesi di squalifica sul campionato per aver lasciato il raduno azzurro, quindi strapunito, si è trovato questa lettera dei compagni di nazionale che pubblica, data all'ANSA come un comunicato, sì, in cui vabbè, veniva spiegato i motivi per cui lui aveva sbagliato. Io credo che i ragazzi volessero fondamentalmente difendere quelle persone che lui aveva attaccato pubblicamente, come i medici, lo staff azzurro che si prodigano da anni per... Beh, ma la domanda è, Luca, ce n'era bisogno? No, secondo me no. Anche secondo me. Perché non solo per la retorica un po' nostra, no? Di quello che i panni sporchi si lavano negli spogliatoi, e se c'è qualcosa da dire... sarà retorica, ma è reale nello sport, no? Almeno nelle realtà che funzionano. Secondo me sì. Spero che lui nello spogliatoio poi non si è presentato perché è andato via prima, però ci sono modi, ecco, diciamo in questo modo figurato, comunque uno se la cava tra giocatori e allenatori, e magari oppure con un'uscita meno paludata, meno ufficiale, meno mandato urbi e torbi, in cui si può dire, tutti possono dire nelle loro interviste o nelle loro cose che non sono d'accordo con, sì, con quello che succede. Si ha quasi la sensazione che ci sia dell'altro. Ma io credo che non ne possano più, evidentemente, perché se no non l'avrebbero fatto, nel senso che evidentemente già dall'anno scorso, quando ci fu il caso di un infortunio che non venne ritenuto tale dalla federazione, è chiaro che non è una cosa che è nata subito, soprattutto non è nato subito questa considerazione di Daniel di essere vessato, quando in realtà non lo è. Quindi sono cose che si portano dietro, però mi ha stupito il fatto che a fronte di una squalifica così pesante che comunque incide sulla carriera di un giocatore, nessuno dei suoi compagni né di Milano né di Nazionale, certo, abbia detto vabbè dai, non importa, tieni duro, ti aiuti, proprio è caduto nel gelo totale, e questo significa che evidentemente no. Guarda, la verità è che lui in Nazionale a sto giro non ci voleva andare, ha fatto tutti gli errori che poteva fare, ma mi viene in mente quanto detto l'altro giorno da Flavio Vanetti, che ha ricordato qual era l'atteggiamento di Velasco con la Nazionale di pallavolo che vinceva tutto. Lui parlava privatamente con i giocatori: allora, vuoi venire, sei motivato, vuoi stare qui, se non vuoi stare qui sono io a non convocarti, non sei tu ad essere messo in una situazione in cui non devi agire in questo modo, ma puoi essere portato a fare errori di questo tipo, non così enormi, ma errori di questo tipo. Paolo Rimini, buongiorno. Ciao, mi avete praticamente detto tutto voi, quindi mi fa piacere, anche se non sono completamente d'accordo con Luca sulla lettera, però vorrei allargare ancora un attimo il discorso su questa Nazionale, tenendo presente che Hackett già l'anno scorso si è defilato con un infortunio alquanto sospetto, perché poi prima della ripresa del campionato, dopo che i suoi compagni avevano già giocato tutto quello che dovevano giocare con la maglia azzurra, lui zampettava tranquillamente. Comunque, a parte questo, parliamo di Nazionale. Cosa deve fare una Nazionale per farsi riamare? Quello che dovrebbe essere sulla carta il secondo sport italiano, l'unica cosa che viene fuori in questo momento appunto è che uno dei giocatori di maggior prestigio lascia la Nazionale, gli altri si preparano per le qualificazioni, ma nel silenzio più totale. Che cosa si può fare secondo voi per riavvicinare la pallacanestro, la grande pallacanestro, al grande pubblico? La giro a Luca, ricordando semplicemente che all'ultima uscita, cioè all'ultimo europeo, qualcosina si è fatto. Sì, esatto, credo che questa sia la risposta giusta, cioè è evidente che parte dai ragazzi, parte da quello che loro riescono a trasmettere, come hanno trasmesso all'ultimo europeo, anche se poi purtroppo sono andati incalando e alla fine non hanno centrato l'obiettivo del mondiale. Io credo che questo gruppo abbia la qualità per avere questo tipo di appeal sulla gente, sulle persone. Devo anche dire, e questo non è un'accusa, perché evidentemente che se in questo gruppo ci fosse stato Marco Bellinelli, campione NBA, o ci fosse stato che si è preso un riposo, che ci fosse stato il rientro di Danilo, che finalmente Gallinari, che finalmente sta bene, il silenzio che c'è attorno forse sarebbe stato meno silenzio. Però è così, e credo che alla fine conti quello che questi ragazzi sanno trasmettere, e credo che abbiano le qualità per farlo. Su questo non ci sono dubbi. Dubito che però le punizioni, adesso proprio non parlo di Hackett, parlo in generale, che le punizioni portino amore per la Nazionale, ecco. No, queste vicende in generale non portano amore per la Nazionale, insomma è stata una vicenda di un autolesionismo da parte di tutti totale, secondo me, da parte di Hackett in primis, ma anche da parte della controparte, diciamo così. Ecco, c'è l'ultima notizia di adesso, che è quella che Milano spalleggia il giocatore Daniel per la prima volta, perché prima invece aveva preso un pochino le distanze, in un'istanza di riesame della sua pena, che verrà discussa domani mattina, chiedendo una diminuzione della pena con delle attenuanti. E le uniche attenuanti in questo caso, visto il regolamento, secondo me potrebbero essere che lui ha chiesto scusa e non ha fatto ricorso. Però poi dopo bisogna, qui entriamo nei casi della giustizia sportiva, quindi questa è comunque la notizia di adesso. Sì, sarà un riesame della sua pena, e quindi vediamo un po' se alla fine. Sì, anche perché onestamente il danno per Milano è stato gravissimo, tanto che insomma il procuratore di Hackett ha detto: se vogliono rescindere il contratto per giusta causa, potrebbero anche avere le ragioni per farlo. Poi è chiaro che dall'altra parte non perdi così d'amblè un giocatore come Hackett a cuor leggero. Certo, anche se nella doppia versione campionato-coppa, in un mondo che ovviamente tra virgolette ostile, non Milano mi riferisco, ma il basket italiano in generale, per come si sta manifestando in tutta questa vicenda, forse è ancora più difficile per Milano la gestione di questo caso. Sì, quindi alla fine finisce per pagare, quella che paga il giocatore e che nello stesso tempo però non ha nessuna colpa per quello che ha fatto il finale. E quindi questo mi lascia, anche questo mi lascia un po' perplesso. Grazie Luca. Grazie a voi. Grazie Luca Chiabotti. Grazie Luca Chiabotti. Intanto è evidente, come sempre nel basket, non ne possiamo parlare per ragioni di tempo, ma guardate la tempistica. In questo caso si è chiusa negli Stati Uniti la vicenda di Donald Sterling, il proprietario dei Clippers, che per quelle frasi razziste sussurrate al telefono alla sua fidanzata è stato sbattuto fuori a calci nel sedere dall'NBA il giorno dopo. Ebbene, vicenda finita, i Clippers passano a Steve Ballmer, ex CEO della Microsoft, 2 miliardi di dollari, quindi una buona uscita cospicua. Però Sterling non potrà più entrare nei palazzetti americani a vedere una partita. Invece i tifosi del Torino, questo mi sono dimenticato di dirlo prima ma è bellissima, i tifosi del Torino che vorranno vedere il Torino domani in Coppa contro lo straordinario Bruma Poikarna, squadra che veleggia allegramente all'ultimo posto del campionato svedese, al momento potranno farlo solo online, pagando 7,90 euro a BPTV online, naturalmente TV svedese, con commento del pardo svedese. Grazie a Franco Biantanini, autore di questo programma, Claudia Schiattoni in redazione, Pietro Lacorte in regia. Ci sentiamo domani pomeriggio, tutti convocati alle 2. Ciao!